Perfetto Giorno di Alessio Maurizi. Il decreto liquidità per le imprese in Consiglio dei Ministri, garanzie pubbliche per i prestiti alle aziende. Scuola a distanza obbligatoria nella bozza del decreto Azzolina e per gli esami possibile un orale unico. In Italia l'epidemia rallenta, test validi per gli anticorpi in arrivo, dice il presidente del Consiglio di Sanità Locatelli. Nel weekend intanto quasi 200.000 controlli e 11.000 sanzioni. Oltre 50.000 morti in Europa, la Germania segue la curva del contagio italiana, superati 110.000 casi, a Wuhan ripartono le attività produttive. Borse positive intanto in attesa dell'Eurogruppo di domani, sale l'aspettativa di una decisione comune sul debito degli Stati. Buongiorno da Alessio Maurizi e dalla redazione, ben ritrovati con il punto delle notizie a metà giornata su Radio 24. Epidemia dunque che si conferma in rallentamento in Italia in queste ore, ma sale il numero dei medici morti, 87 dall'inizio. Positivo è risultato al tampone anche il direttore dell'Agenzia del Farmaco, che è in isolamento ma sta bene. L'AIFA, che tra l'altro sta autorizzando i farmaci per il contrasto del Covid anche ai medici di famiglia. Intanto il Consiglio dei Ministri è riunito da un'ora circa, chiamata ad approvare il decreto liquidità con le garanzie dello Stato per i prestiti alle aziende, in discussione anche il decreto sulla scuola. Dare una boccata d'ossigeno alle aziende ed evitare chiusure e fallimenti. Questo è l'obiettivo del decreto liquidità, che prevede finanziamenti per circa 10 miliardi a garanzia di prestiti per 200 miliardi di euro. Fidi che verrebbero erogati in base al fatturato del 2019, coprendo al massimo il 25%. La garanzia pubblica sarà fino al 100% e senza alcuna valutazione di merito per i prestiti fino a 25 mila euro, un meccanismo che consente così di velocizzare i tempi. Sempre totale, ma con una valutazione da parte della banca per prestiti fino a 800.000 euro, mentre per quelli superiori fino a 5 milioni di euro la garanzia statale sarà del 90%, ma potrà salire in caso di partecipazione dei Confidi, i consorzi privati. I tassi dovrebbero essere vicini allo zero e la restituzione in circa 6 anni. Per le aziende con fatturato oltre 50 milioni la garanzia sarà di SACE, l'agenzia che resterà sotto il controllo della Cassa Depositi e Prestiti. Nel provvedimento presenti anche misure a sostegno delle partite IVA, norme per il rinvio delle scadenze fiscali, lo scudo del Golden Power contro le scalate dall'estero sulle aziende strategiche italiane, misure di sostegno all'export e sgravi per opere di sanificazione e acquisto di mascherine. Alessandra Schepisi, Radio 24 e Sole 24 Ore, Roma. E a proposito dell'obbligo di didattica a distanza per tutte le scuole previsto nella bozza del decreto Azzolina, come dicevamo, per farla occorrono naturalmente all'interno di ogni famiglia PC, tablet o smartphone. Ebbene, secondo l'Istat quasi il 40% delle famiglie italiane non ha né un PC né un tablet in casa. Una fotografia che ritrae un'Italia ancora arretrata sul fronte tecnologico per famiglie, soprattutto al sud, un dato che fa riflettere durante la quarantena. Nel periodo 2018-2019 il 33,8% delle famiglie non aveva un computer o un tablet a casa. La quota scende al 14,3% tra le famiglie con almeno un minore. Solo per il 22,2% delle famiglie ogni componente ha a disposizione un PC o un tablet. Lo rivela l'Istat nella ricerca Spazi in casa e disponibilità di computer per bambini e ragazzi. La percentuale di famiglie senza computer supera il 41% nel mezzogiorno, con Calabria e Sicilia in testa, rispettivamente 46% e 44,4%, ed è circa il 30% nelle altre aree del paese. C'è poi un'altra emergenza ed è quella del sovraffollamento abitativo. Nel 2018 il 27,9% delle persone viveva in queste condizioni, con un disagio più diffuso per i minori pari al 41,9%. Elisabetta Fiorito, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. Dunque, dicevamo, si conferma il rallentamento dell'epidemia, mentre nelle regioni più colpite partono i test sierologici per la valutazione degli anticorpi, ma anche i protocolli per le cure domiciliari. Sentiamo. altri 8 medici sono morti per il coronavirus e il totale dei camici bianchi deceduti sale a 87. Positivo al test è risultato anche il farmacologo Nicola Magrini, 59 anni, da un mese direttore generale dell'AIFA, l'agenzia del farmaco. I dati di ieri segnalano ancora una crescita del contagio in Italia, ma a ritmi che stanno rallentando e con un calo per la prima volta dei ricoveri totali e di quelli in terapia intensiva. E il sistema sanitario si prepara ora a convivere con il Covid-19 finché non sarà trovato un vaccino. Tra pochi giorni il Consiglio Superiore di Sanità validerà i test sierologici che serviranno per mappare l'andamento dei contagi e scovare le persone che hanno sviluppato immunità. Si va poi verso le mascherine per tutti, sono già obbligatorie in Lombardia e Toscana. Si va verso un monitoraggio più attento da parte dei medici di base per anticipare la diagnosi e le cure. Si va infine verso terapie differenziate a seconda dello stadio della malattia e sono 8 le sperimentazioni di farmaci attualmente autorizzate dall'AIFA. Alessandro Arona, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Ed è stato ieri il presidente dell'Istituto Superiore di Sanità a parlare per primo di una fase 2, ha detto la curva sta effettivamente discendendo e allora si può iniziare a parlare di fase 2, ma in che cosa consisterà? È una corsa contro il tempo per combattere contro il virus e poi fare ripartire l'economia italiana appena una profonda recessione. Il governo sta pensando a un tavolo maggiormente allargato rispetto a quello attuale, in cui siedono solo medici e scienziati. Si muoveranno i primi passi forse dal 14 aprile, quando scadrà il blocco generale, a fasi, la successiva il 2 maggio. Per convivere con il virus a bassa diffusione però bisognerà rispettare prescrizioni sanitarie stringenti per non tornare a un ritorno del contagio, e senza farmaci o vaccino la misura principe è il distanziamento sociale del meno un metro, così Di Maio ad Agorà. Fase 2 non vuol dire liberi tutti. È chiaro che quando ricominceremo ad uscire avremo bisogno comunque di cambiare le nostre abitudini. Questo si traduce per le imprese in spazio idoneo tra lavoratori con mascherina, a partire dalle imprese che hanno sottoscritto accordi di sicurezza sanitaria con i sindacati sotto la sorveglianza dei prefetti. Per prime, secondo le indiscrezioni, forse alcune filiere e gli artigiani, più in là bar, ristoranti, palestre, teatri, cinema. E l'esperienza del telelavoro, smart working, che ha visto un'impennata da 500.000 persone a 8 milioni, sarà il volano per un cambiamento dell'organizzazione aziendale. Anna Marino, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E allarghiamo la cronaca al mondo. Oltre 110.000 i casi di contagio in Germania, che sembra seguire la curva italiana. In Cina, a Wuhan, invece, è stata decisa la ripartenza di quasi tutte le attività produttive. In un mondo in cui morti sono quasi 70.000, 50.000 nella sola Europa e i contagiati 1.200.000, uno spiraglio arriva dalla Spagna, che ha registrato il numero minimo di decessi, 637, dal 24 marzo scorso. In Germania sono ormai più di 110.000 i contagi e 1.500 le vittime, secondo la Johns Hopkins University. Ottimista l'Austria, intende riaprire gli esercizi commerciali dopo Pasqua a tappe, prima vivai e centri fai da te e poi da maggio gli altri esercizi, parrucchieri compresi. Nel Regno Unito il premier Johnson ha trascorso la notte in ospedale per fare dei test, ma rimane al comando del governo, fa sapere il suo staff alla BBC. Sono fiducioso che Boris Johnson si rimetterà presto, l'augurio di Donald Trump, il cui paese ha registrato nelle ultime 24 ore la morte di altre 1.200 persone. Negli USA i casi, oltre 320.000, sono oltre il doppio di Spagna e Italia e 4 volte quelli della Cina, più di 9.000 in totale le vittime. E l'emergenza scatta anche in Giappone, dove i contagi hanno superato quota 1.000 a Tokyo. E mentre l'Argentina esenta le donne e gli altri soggetti a rischio violenza domestica da restare in casa, da Wuhan, città epicentro della pandemia, una bella notizia: oltre il 90% delle imprese ha ripreso le attività. Roberta Pellegatta, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E borse positive oggi: Milano guadagna in questo momento il 2,8%, Francoforte ben il 4,3%. In attesa dell'Eurogruppo di domani, cresce l'aspettativa che possa arrivare una decisione comune sul debito degli stati. Le borse hanno scommesso in apertura di settimana su un esito positivo dell'Eurogruppo di domani, e cioè che prenda una decisione che sembra sarà quella di un pacchetto anticrisi comprensivo di Eurobond. Certo, i dettagli sono da discutere, ma le parole ieri dei commissari europei Gentiloni e Breton a proposito di una emissione di titoli comuni per affrontare la crisi e l'apertura oggi dei ministri degli esteri e delle finanze tedeschi fanno intuire degli spazi di manovra. Dobbiamo provvedere alla liquidità degli stati dell'Unione, scrivono Maas e Scholz in una lettera a quotidiani dei paesi europei più colpiti: Italia, Spagna, Francia, Portogallo e Grecia. Il MES offre già la possibilità ai paesi dell'euro di ottenere capitale alle stesse condizioni di favore. Liberiamolo di troica, controllori e commissioni per le riforme e adattiamolo alla situazione, dicono. Per l'Italia sarebbero già 39 miliardi da usare nell'emergenza. E poi, aggiungono ancora, ci vorrebbe un fondo di garanzia paneuropeo per garantire i crediti con cui la BEI approvvigiona di liquidità le PMI europee. Laura Bettini, Radio 24, il Sole 24 Ore. E oggi 6 aprile è l'anniversario del terremoto dell'Aquila. La ricostruzione dell'Aquila resta una priorità ed un impegno inderogabile per la Repubblica, così Sergio Mattarella in un messaggio al sindaco della città Biondi in occasione dell'undicesimo anniversario dal sisma che devastò la città. I cittadini, scrive il capo dello Stato, hanno diritto al compimento delle opere in cantiere, al ritorno completo e libero della vita di comunità. Una ricorrenza che quest'anno, ha evidenziato il presidente, si celebra in un contesto del tutto eccezionale, determinato da una pericolosa pandemia che siamo chiamati a fronteggiare con tutta la capacità, la responsabilità e la solidarietà di cui siamo capaci. Niente fiaccolata per la commemorazione di quest'anno e messa a porte chiuse. A rompere il silenzio alle 3:32 ora del sisma, solo i 309 rintocchi della campana della Chiesa del Suffragio in ricordo delle vittime. Katia Caramelli, Radio 24, Sole 24 Ore. E adesso anche un'altra notizia, c'è spazio per raccontare di come avanzano i lavori per il nuovo ponte di Genova. È stata issata un'altra campata da 50 metri. Il sole stamane si riflette sul ponte in costruzione che, visto da lontano, ora è una linea d'acciaio quasi completata a tagliare di nuovo dall'alto la Valpolcevera, mentre tutto attorno la città vive in un'atmosfera rarefatta e innaturale. Ieri, con il varo in quota del quintultimo impalcato e di un pezzo del concio di collegamento, si sono raggiunti 910 metri, ne mancano solo 154. L'ultima trave dovrebbe essere sollevata entro la metà della prossima settimana, poi occorreranno almeno due mesi e mezzo per asfaltare, allestire e collaudare l'infrastruttura. Il cronoprogramma iniziale prevedeva l'inaugurazione entro la fine di aprile, poi il maltempo d'autunno e ora l'emergenza sanitaria con un operaio contagiato, altri in quarantena e una ditta che ha rinunciato al subappalto hanno ritardato i tempi. A questo punto, ragionevolmente, l'inaugurazione del nuovo ponte di Genova potrebbe avvenire entro la prima metà di luglio. Andrea Ferro, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Uno sguardo arriva anche dalle città deserte di queste settimane e in particolare in alcune zone vicino alle montagne o alle campagne. Bene, orsi, cinghiali e altri animali selvatici fanno la loro apparizione, forse a causa proprio della smobilitazione umana. L'emergenza Covid-19 nel mondo ha svuotato le piazze e le strade da macchine e persone. Ne approfittano anche gli animali che si spingono in luoghi e spazi per loro insoliti. In Trentino Alto Adige, sull'altopiano di Pinè, si è rifatto vivo dopo un breve letargo l'orso M49, soprannominato Papillon, per la rocambolesca fuga del luglio scorso. Dopo essere stato catturato dagli uomini della provincia autonoma di Trento, M49 è riuscito infatti a scappare dal recinto elettrificato costruito per lui con una dinamica ancora incomprensibile. È stato avvistato nella zona dell'altopiano di Pinè e i sindaci della zona, poco distante da Trento, hanno subito lanciato l'allarme alla popolazione. Il sindaco di Baselga di Pinè, Ugo Grisenti. È un orso che percorre grandi tragitti proprio, dove di scorso è stato trovato sull'altopiano di Pinè, ma due giorni prima era in Alto Adige, a una cinquantina di chilometri di distanza. Abbiamo diramato un comunicato, soprattutto nei confronti degli allevatori, al fine di mantenere i recinti e gli animali per dar meno adito a questo orso di eventuali attacchi. Adriana Fracchia, Radio 24, Il Sole 24 Ore. 13:14, effetto giorno fa un break, torniamo tra poco con tutte le altre notizie, ripartiremo dalle indicazioni per i medici di famiglia sui farmaci che possono essere assegnati per contrastare il Covid in Lombardia. Da adesso esiste non chiamiamole linee guida, chiamiamolo protocollo, ma insomma esistono delle indicazioni uniformi che dovrebbero segnare un cambio di passo nel contrasto all'epidemia. 349-238-6666 per i vostri messaggi, ci trovate anche sulla pagina Facebook di Effetto Giorno. Effetto perfetto giorno. Queste le notizie di oggi, il decreto liquidità per le imprese in Consiglio dei Ministri, scuola a distanza obbligatoria nella bozza del decreto Azzolina e per gli esami è possibile un orale unico. In Italia intanto l'epidemia rallenta, test validi per gli anticorpi in arrivo, dice il presidente del Consiglio di Sanità Locatelli. Oltre 50.000 morti in Europa, in Germania la curva del contagio segue quella italiana, superati 110.000 casi, a Wuhan ripartono le attività economiche. Lombardia, ecco il protocollo per le cure dei medici di base, potranno prescrivere farmaci contro il Covid. Quali? Ne parliamo tra poco con il professor Rizzardini del Sacco di Milano. Sono 13:17, nuovo buongiorno da Alessio Maurizi, cari ascoltatori, in diretta con Effetto Giorno, come avete sentito dunque dai titoli, è con noi il professor Giuliano Rizzardini, buongiorno. Buongiorno. Benvenuto, direttore del Dipartimento Malattie Infettive dell'ospedale, fate bene, Fratelli Sacco di Milano, per parlare, professor Rizzardini, di questo che sembra essere a questo punto un... non dico una svolta, ma insomma un cambio di passo sicuramente importante nel contrasto dell'epidemia di coronavirus, perché fino ad oggi i medici di famiglia non avevano diciamo delle indicazioni uniformi, indicazioni chiare, in alcuni casi non c'erano proprio delle indicazioni. Adesso non parlo solo per la Lombardia ma anche per le altre regioni, si è iniziato un po' a macchia di leopardo, adesso a quanto apprendiamo c'è una serie di indicazioni, lo ha detto l'assessore della sanità della Lombardia Giulio Gallera. Io le chiedo che cosa cambia, quali sono queste indicazioni che arrivano ai medici di famiglia che verranno contattati da chi ha dei sintomi per poter fare che cosa, professore? Intanto ho fatto una premessa che ad oggi non esiste nessuna terapia farmacologica che è validata con evidenze provate di efficacia contro il coronavirus, per cui se andate un po' per tentativi riciclando sì. Farmaci che vengono usate in altre situazioni, in altre patologie, oppure certo. Anticipando dei farmaci che non sono ancora stati registrati sulla base di eventualmente di esperienze fatte su altre malattie, soprattutto su malattie causate da coronavirus, la SARS e la MERS, in cui hanno dimostrato eventualmente un'efficacia anedotica. Quello che c'è bisogno sono degli studi controllati, il tentativo che è stato fatto da Regione Lombardia è dare delle indicazioni, quindi nella premessa è stato ben specificato che non sono linee guida, delle indicazioni sull'uso almeno fai da te, soprattutto sul territorio. Perché, sì, allora se vogliamo addentrarci anche alla differenza tra linee guida e indicazioni, possiamo anche provare in non troppo tempo, professore, a fare questa distinzione. Però provo a riassumere intanto, a spiegare in termini semplici, forse anche banalizzando un po', però non esiste una cura del Covid al momento. Ci sono dei farmaci già usati per altre malattie in passato, dall'Ebola all'HIV alla SARS, che sono stati usati e hanno dei risultati, soprattutto se usati in maniera precoce. Ecco, da questo momento i medici di famiglia, che non stanno all'interno degli ospedali, come dire, hanno avuto l'indicazione di poter anche loro in qualche modo usare questi farmaci che comunque hanno una loro riescono in qualche modo a cambiare un po' il corso in alcuni casi. In alcuni casi hanno un'efficacia dimostrata in laboratorio, in altri casi hanno un'efficacia dimostrata in maniera anedotica, che appunto non ci permette di scrivere delle linee guida ma dare eventualmente delle indicazioni. Quindi lei ha spiegato benissimo, viene data la possibilità, cosa che fino a qualche giorno fa non c'era, ai medici di medicina generale di prescrivere direttamente questi farmaci o di continuare delle terapie che vengono prescritte in ospedale. Senta, professore, le chiedo se è possibile anche di magari avvicinarsi al telefono, di tirare sì. un pochino fuori la voce, abbiamo molti problemi con le linee telefoniche. Non più molto. Anche perché, diciamo, lei l'abbiamo sottratta alla corsia in queste ore, come tutti, sta lavorando moltissimo e quindi diciamo che è anche un momento forse di riposo per lei questa intervista telefonica con noi. Le voglio chiedere, di fronte a quali sintomi si deve chiamare il medico a questo punto per poter diciamo arrivare nel caso a questo tipo di farmaci, a questo tipo di cure? Beh, Il sintomo principale è la febbre, che spesso è accompagnato da sintomi che colpiscono le arterie respiratorie, tosse raffreddore. Ultimamente abbiamo visto che in molti casi i pazienti non sentono più il gusto del cibo, non sì. sentono più gli odori, per cui non solo uno di questi sintomi, ma un corteo di questi sintomi c'è indicazione di chiamare il medico. Senta, quali sono queste terapie? Se può entrare anche un pochino più nel dettaglio, lei l'ha anticipato. Noi siamo partiti da delle indicazioni che AIFA ha dato l'altro giorno, e diciamo che ha indicato tre tipologie di farmaci. Due farmaci sono farmaci che sono stati usati per la HIV/AIDS, farmaci che conosciamo bene, a quanto meno noi infettivologi. Sì. Sono della classe di inibitore proteasi, uno l'opinavir e ritonavir, che è un antiretrovirale appunto registrato per l'HIV, che è stato usato anche con qualche effetto in patologie da coronavirus, la SARS e la MERS, e comunque ha alcune evidenze. L'altro farmaco appartiene alla stessa categoria, sì. dell'opinavir e ritonavir, si chiama darunavir e cobicistat. Meno studi fatti, è stato meno utilizzato, e anche qui qualche caso di miglioramento, ripeto, aneddotico, è stato riportato. Questi sono farmaci che a questo punto possono essere prescritti anche da altri specialisti e più facilmente prescritti in ospedale, perché sono farmaci a distribuzione ospedaliera e poi comunque dati al paziente e possono essere somministrati sotto la guida del medico di medicina. Quello più particolare, che può prescrivere direttamente il medico di medicina generale, sì. l'idrossiclorochina, che è un farmaco che viene utilizzato per le malattie reumatiche, perfetto. Il medico lo conosce molto bene. È un farmaco diciamo diffuso anche più su larga scala, che fortunatamente adesso può essere prescritto, perché poi c'era un accaparramento dello stesso farmaco non controllato, per cui c'era gente che faceva scorta, c'era gente che se lo autosomministrava in questa maniera quantomeno un pochino più ordinato. Senta, professor Rizzardini, un'ultima cosa le volevo chiedere, l'ho interrotta, poi se vuol proseguire, la domanda è questa: lei fa parte anche delle personalità che lavorano per la regione Lombardia in questa fase, proprio come nel comitato insomma per questa emergenza. Le persone sintomatiche a questo punto, non gravi, che non vanno in ospedale, rimarranno a casa, quelle trattate in questo modo che ci stava raccontando lei con i medici di famiglia, o verranno radunati? Si è parlato di hotel, alberghi, cose di questo genere. Ma adesso quali siano le strategie future è un po' difficile da dire. Finora abbiamo risposto, secondo me, anche in maniera più possibile ottimale a un'emergenza in cui sono arrivate ondate di pazienti gravi sull'ospedale, dove abbiamo organizzare tutta la parte delle cure intensive o subintensive. E lì si è risposto, adesso si penseranno alle strategie. L'importante è o che stia a casa o che venga messo in, diciamo così, sì. in settori subintensivi, che ci sia il monitoraggio stretto, perché certo. il monitoraggio stretto, che può essere fatto anche dal medico di medicina generale, che magari basta due telefonate al giorno, una misurazione, assolutamente, è quello che ci permette di capire quando un paziente sta scivolando verso le situazioni meno favorevole, quindi anticipare, evitare quello che spesso abbiamo visto in queste ultime settimane: pazienti che sono rimasti a casa per troppo tempo e quando sono aggravati, in gravi condizioni. Chiaro. Diciamo che siamo in una fase che un po' non siamo fuori dall'emergenza, ma siamo un po' meno pressati, per cui si può porre maggiore attenzione a questo e creare delle nuove strategie. Grazie professor Giuliano Rizzardini, grazie mille per essere stato con noi, il direttore di malattie infettive del Sacco di Milano, grazie. E allora, a questa fase quindi della dell'epidemia di coronavirus, dunque, scatta anche in maniera più strutturata questa risposta dei medici di famiglia in Lombardia, che resta la regione più colpita. Da ieri in Lombardia è obbligatorio l'uso delle mascherine, ma un'ordinanza simile è attesa anche in Toscana. E allora la nostra Livia Zancanera ha intervistato l'assessore all'ambiente della regione Lombardia, Raffaele Cattaneo, che sta seguendo il tema dell'approvvigionamento di mascherine. Siamo stati contattati da centinaia di imprese, saremo intorno a 500 imprese che ci hanno contattato offrendo la propria disponibilità, non solo per le mascherine, ma la gran parte per le mascherine. Però noi abbiamo avviato un lavoro molto serio con il Politecnico di Milano di screening dei materiali che ci arrivano, dei campioni che ci arrivano, per verificare quali tipologie siano effettivamente in grado di garantire prestazioni simili o superiori a quelli delle mascherine certificate. Quindi noi abbiamo cercato di costruire una filiera che, come dire, favorisse e accelerasse i produttori capaci di fornire, capaci di utilizzare il tessuto non tessuto con certe caratteristiche, per chi voleva assicurare una produzione in grado di avere performance adeguate, cioè in grado di garantire una protezione adeguata a chi indossa queste mascherine. E per ora quante sono queste aziende? Su parecchie centinaia sono solo una decina quelle che ci hanno mandato campioni con dei materiali idonei. E adesso è con noi Vittorio Sambri, che è il coordinatore della rete dei laboratori diagnostici per il Covid-19 dell'Emilia Romagna. Buongiorno. Buongiorno, buongiorno. Benvenuto, docente di microbiologia all'Università di Bologna. Professore, voi avete iniziato questo screening, i famosi test per gli anticorpi, insomma, inizialmente sul personale sanitario, ma Bonaccini ha detto che, insomma, si estenderanno anche poi ad altre persone, un po' a tutte le persone che si riterrà opportuno testare. Tutti vorrebbero sapere i dati, non so se voi avete già dei dati sui primi test che avete fatto in queste ore. No, dei dati non ce ne sono ancora, anche perché l'attività è cominciata giovedì della settimana scorsa, in maniera, ovviamente lei comprende, frammentaria, perché si trattava anche di organizzarla sulle singole aziende che partecipano alla rete, quindi dei dati non ne abbiamo ancora, e per adesso ci siamo limitati a una lista di priorità di colleghi operatori sanitari che è stata concordata a livello della regione, che mette al primo posto in priorità 1 i colleghi che lavorano nelle terapie intensive, nel pronto soccorso, certo, e nelle malattie infettive, oltre che l'RSA. Senta, l'Istituto Superiore di Sanità, ma anche il Ministro Speranza, nel suo piano in 5 punti per organizzare un po' la ripartenza, si punta molto su questi test degli anticorpi, dicono che bisogna, come dire, ci vogliono test affidabili, ma c'è ancora, come dire, un po' di attesa da parte, appunto, dell'Istituto Superiore di Sanità su questo. I vostri quali credenziali hanno, come li avete scelti? Ah, guardi, è stato semplicissimo. Abbiamo dovuto trovare una soluzione a qualcosa che si sarebbe potuti aspettare venire anche dai livelli, diciamo, istituzionali. È del 18 di marzo, se non ricordo male, un parere del Comitato Tecnico Scientifico che invitava le regioni a non usare in maniera indefinita qualunque test, perché le posso garantire, sembra di essere nel Far West, di questi test rapidi, più o meno affidabili, più o meno diversi uno dall'altro, io credo di averne visti almeno un centinaio nell'ultima settimana, e quindi è veramente molto difficile. Però diciamo che l'indicazione del Comitato Tecnico Scientifico era che ogni regione si facesse una sorta di breve o ampia, a seconda di quelle che erano le esigenze, validazione. Noi l'abbiamo fatto in collaborazione soprattutto con i colleghi di Reggio Emilia, ma con tutti i laboratori della rete, e abbiamo visto che un test, ma al momento è uno, non l'abbiamo sposato e non l'abbiamo scritto nella roccia. Dava certe garanzie, diciamo. Dava alcune garanzie, che sono soprattutto quelle di non identificare verosimilmente gli anticorpi nei confronti degli altri coronavirus che comunque continuano a circolare. Ma di questo specifico, ma di questo qui. Di questo specifico. Certo. È chiaro che il problema che abbiamo adesso è sapere quanto è sensibile questo test, perché se lei si rifà agli unici due lavori pubblicati che sono stati recentemente commentati sul New England a fine marzo, tutti dicono nei soggetti sintomatici, quindi nei malati fondamentalmente, sì, la sierologia ha un valore come test complementare rispetto all'RT-PCR sul tampone, no? Sì. Poi c'è chi dice che la sierologia compare a 7 giorni, chi a 9, chi a 12, a seconda di come la vai a cercare, però diciamo che in generale questi due lavori sono gli unici due, uno è stato pubblicato su Clinical Infectious Disease, che è un giornale molto autorevole, l'altro su un altro giornale almeno altrettanto autorevole per noi virologi, che è il Journal of Medical Virology, che dicono sostanzialmente che la sensibilità è intorno al 90% e la specificità intorno al 90%. Ecco. Questo in una popolazione di soggetti malati. Noi stiamo lavorando su una popolazione di soggetti asintomatici, certo, per definizione. Cambia quindi tutto. Sì, cambia tutto, tant'è che quello che noi stiamo facendo è una strategia, se posso, di buon senso, perché tanto la strategia basata sul tampone per tutti è assolutamente non realizabile. Sì. Gli operatori sanitari. Sì, no, ma mi sembra che su questo si stia, diciamo. È impensabile, cioè non ci sono proprio le risorse, sì, no? Sì. Allora, e soprattutto non ci sono le risorse e non sappiamo qual è la sensibilità. Leggevo stamattina un report che dava una sensibilità stimata sui soggetti non sintomatici del tampone al 50%, che è come tirare la monetina. Certo. Professor Zambri, visto che appunto al momento non abbiamo ancora dati, è quello che tutti aspettano poi anche di conoscere, perché comunque questi test sugli anticorpi avranno anche un significato in qualche modo anche statistico, forse, no? Partendo da categorie precise che possono i sanitari, ma poi anche la popolazione, quindi staremo a vedere, naturalmente ci risentiremo. Quando è possibile che abbiate, diciamo, la possibilità di diffondere i primi dati? Se ce lo dice così, ma ci diamo un appuntamento. Io ritengo da qua una decina di giorni. Va bene, allora ci risentiremo entro questo termine. Grazie per ora e buon lavoro, buona giornata. Grazie a lei, buon lavoro, buona giornata a tutti. 13:33, piccolo break, torniamo tra pochissimo. Effetto giorno. Queste le notizie di oggi, il decreto liquidità per le imprese in consiglio dei ministri, garanzie pubbliche per i prestiti alle aziende, in discussione anche la scuola a distanza che diventa obbligatoria. In Italia l'epidemia rallenta, test validi per gli anticorpi in arrivo, dice il presidente del Consiglio di Sanità Locatelli, nel weekend intanto 200.000 controlli e 11.000 sanzioni. Oltre 50.000 morti in Europa, in Germania la curva del contagio segue quella italiana, superati 110.000 casi, a Wuhan ripartono le attività economiche. Borse positive intanto in Europa, in attesa dell'Eurogruppo di domani sale l'aspettativa di una decisione comune sul debito degli stati. Il punto di Alberto Orioli. Il coronavirus ha messo l'economia di tutti i paesi in uno stato di coma farmacologico in seguito alle decisioni di blocco, chiusura o isolamento. Nessuno compra, nessuno vende, a parte i prodotti della sopravvivenza. Chi esporta ha visto crollare tutti i mercati di sbocco, sia europei sia extraeuropei. Lo sforzo che ogni Stato ha messo in campo per far fronte alla liquidità rappresenta la prima esigenza vitale per far sopravvivere l'economia e garantire a questo corpo in coma una circolazione appunto extracorporea, come se l'economia stesse continuando a vivere. È l'unica strada per arrivare all'appuntamento con la ripresa pronti a cogliere la ripartenza, altrimenti ci saranno solo imprese senza più ordini e con devastanti buchi di bilancio e il rischio di avere un paese, che è la patria delle PMI, desertificato nella sua manifattura e nei suoi servizi. C'è un'altra variabile da considerare, la velocità d'azione. Ciò che sembra uno sforzo immane da parte dello Stato, sia con fondi diretti, sia con il sistema delle garanzie pubbliche, alle banche che prestano alle imprese senza contropartite, è legato in realtà alla velocità. Più lo sforzo è immediato, diretto, senza burocrazie e rapido, più si risparmiano risorse pubbliche, perché l'economia riprenderà a fluire normalmente nel più breve tempo possibile e quelle risorse torneranno alla fine come crescita e come tasse.